Capirete che nella mia qualità riconosciuta di esperto di gialli e materiale affino, sono tenuto a tenere d'occhio, oltre che all'uscita in edicola e libreria, la produzione televisiva che ha a che fare con quel nobile genere narrativo. E questo significa più delle volte condannarsi a sorbire delle ciofeche pazzesche, perché tra commissari Rocca, Valeri e medico legale, Linder brigatiere e affini, la televisione italiana, vuoi pubblica vuoi privata, è spesso riuscita nel difficile compito di far rimpiangere a tutti il commissario Derrick, o l'ispettore Derrick, forse era al suo grado. Ma ogni tanto in qualcosa di un poco più degno può capitare di imbattersi. Così per esempio vi confesserò che non mi dispiace del tutto uno sceneggiato che Rai 3 manda in onda da anni, tutte le settimane, anche assolutamente sospeso per lasciare spazio alla programmazione prenatalizia, immagino anche per far tirare un po' il fiato agli attori, e forse ne avete visto qualche episodio anche voi. È quello che in diretta concorrenza con una serie perfettamente analoga di Canale 5, che a me peraltro non piace, anche se la sceneggiatura lavorano un paio d'amici miei, è quella che racconta le vicende di un commissariato di polizia della periferia di Napoli. È una serie che si raccomanda più che per gli intrecci, che spesso lasciano il tempo che trovano, per la galleria di personaggi che autori e autori sono riusciti col tempo a definire e a proporre. I generi narrativi hanno le loro convenzioni e le loro regole, e il prosieduro al poliziesco, fin dai tempi dell'immortale 87° distretto di Ed McBain, ha bisogno soprattutto di personaggi ben caratterizzati, e personaggi positivi in grado di assicurarsi la simpatia dei fruitori e di offrire loro un modello in cui immedesimarsi. E per essere positivi, bisogna dire, i personaggi dello sceneggiato a cui mi riferisco lo sono anche troppo. Sono dei poliziotti che meglio di così non li si potrebbe trovare a cercarli con il classico lanternino. Simpatici, affabili, intelligenti, pur se non esenti talvolta da umani difetti, perché siamo tutti così, no? E quando non sono impegnati in certe loro complesse interazioni di natura erotico-sessuale, perché la polizia è un corpo misto, e comunque per motivi di correttezza politica ci si aspetta da un giorno all'altro la comparsa di almeno un agente gay, e quando non sono così occupati si danno un grandissimo da fare per sgominare ogni sorta di criminali, e come se non bastasse si danno da fare ancora di più per rendersi utili ai cittadini. Non c'è uomo, donna o bambino afflitto da qualche problema, non c'è ragazza perduta, vecchietto fuori di testa, povero Cristo generico, sfigato a oltranza, extracomunitario nei guai, che ponga piede per un motivo o per l'altro nella loro sede e senza che agenti, sovrintendenti, ispettori e vicecommissari non si impegnino in una nobile gara a chi possa più e meglio giovargli. Ciascuno a suo modo, naturalmente, chi con un tono più burbero, chi più umanamente partecipe, chi decisamente sollecito e quasi affettuoso. I tipi umani, si sa, sono tanti, e in quel commissariato ne sono raccolti parecchi, ma tutti, ognuno per il suo verso, sono portatori di una virtù. Se un moderno teofrasto volesse completare i caratteri con la descrizione di un certo numero di modelli etici positivi, non avrebbe che guardarsi un paio di puntate e troverebbe metà del lavoro già fatto. Comunque, visto che ciascuno ha le sue preferenze, vi dirò che il mio prediletto tra tutti quei servitori dell'ordine pubblico è Alfio, il centralinista. È costui un ragazzotto più giovane degli altri, che spiega la modestia delle mansioni e la caratterizzazione che gli tocca, che è un po' quella dell'imbranato, che capita spesso ai novellini, no? Almeno nella narrativa. Ma è un così bravo ragazzo. È quello che a Napoli credo si definisca un babà. E sbriga il suo lavoro con diligenza e cortesia, dà una mano se necessario alle indagini e agli appostamenti, è sempre il primo ad aiutare i bisognosi, a consolare gli afflitti, si tratti di vittime della criminalità, di colleghi nelle canne per motivi personali o di belle poliziotte di cui lui è innamorato in segreto ma non lo vedono neanche di striscio, perché spasimano in vano per degli altri. Insomma, è il tipico agente del volto umano, quello di cui autorità e cittadini non hanno che da compiacersi. In effetti, persino su di me, che pure per innata diffidenza e per motivi generazionali resto legato a un'immagine affatto diversa della polizia, quella dei caroselli del Terzo Cevere, del caso Pinelli, dell'inchiesta su Piazza Fontana, e queste cose qua, insomma, Persino su di me l'immagine di un corpo di pubblica sicurezza che abbiano le sue file siffatte persone che volete che vi dica produce un innegabile effetto consolatorio. L'unico vero problema in casi simili sorge quando per un motivo o per l'altro si ha necessità di mettersi in contatto con un vero posto di polizia. Allora di figure alla Alfio non se ne riesce a trovare una. E mettete per fare un esempio che abbia a che vedere con i centralini, di dover sbrigare una semplicissima pratica amministrativa. Dovete, tanto per dire, denunciare il fatto che a casa di vostra madre si è trasferita una collaboratrice domestica in servizio permanente effettivo, perché anche a quest'obbligo, nella sua imperscrutabile logica, ci sottopone la legge. Non avete idea di quante difficoltà incontrerete nel vostro cammino. E potrà capitarvi, per esempio, che al primo commissariato o distretto a cui telefonerete per informazioni, l'Alfio di turno, dopo avervi chiesto a che indirizzo abita la madre in questione, vi risponda secchissimo che quella viene dalla loro giurisdizione non rientra e sbatta giù la cornetta. Voi potrete pensare che una dritta sulle carte necessarie avrebbe potuto darvela lo stesso, ma che è difficile che in commissariato Sempione usino delle carte diverse che non al distretto Forlanini, per fare degli esempi. Però tutto è possibile, per cui cercherete un altro numero e ricomincerete da capo. Dal nuovo centralino una voce seccata vi risponderà che informazioni sui permessi di soggiorno degli extracomunitari non, per telefono loro non ne danno. E di nuovo la linea sarà bruscamente interrotta. Richiamerete pazienti spiegando che dei permessi di soggiorno non ve ne interessa assolutamente niente, che non su questo volete lumi, ma su una cessione di immobile, perché in quel modo evasivo, ingannevole, la legge definisce quell'adempimento. Niente da fare, risponderà la voce in tono sempre meno disponibile. Quelle pratiche per quella zona vanno fatte nel commissariato della zona adiacente, sede naturalmente in cui nessuno al telefono risponde. Probabilmente perché il centralinista, secondo le orme del suo omologo televisivo, è troppo occupato a consolare i colleghi. E naturalmente quando vi presenterete di persona sarete trattati, se non proprio come un malfattore pericoloso agguantato dopo un drammatico inseguimento, certamente come un insopportabile rompicoglioni venuto a importunare delle persone che hanno altro da fare per qualche sua insulsa e personale menata. Sciocchezze, sono tutte sciocchezze naturalmente. La vostra pratica, con un po' di pazienza, riuscirete a sbrigarla, diciamo in 3 settimane, e sarebbe ingenuo e un po' sciocco pretendere che tutto funzioni come in uno sceneggiato televisivo. E comunque c'è sempre chi se la passa peggio, come avete potuto notare nel vostro girare da un commissariato all'altro, osservando le file dei lavoratori stranieri venuti a sbrigare le loro pratiche e osservando quello che gli capita. Ma in tanti anni di frequenza settimanale al teleschermo, voi a quell'altro tipo di rapporto tra polizia e cittadini vi eravate affezionati. E adesso, mentre aspettate in piedi in un corridoio che qualcuno recuperi chissà dove la copia del modulo di cui avete bisogno, vi può venire persino la tentazione di informare gli astanti che se le cose continuano ad andare avanti così, la prossima volta cambierete canale. E anche se con canale 5 non avete niente a che fare, passerete alla serie concorrente. Poi vi ricordate subito che adesso in TV non siete, che nella vita di canale ce n'è uno solo. Ma non aveva detto Oscar Wilde che la realtà imita la fantasia?